Hey, big boys, big girls, oh no, aiuto. Non siamo mai soli in questo gioco di ruoli che non permette assenze. Non fa niente se non giochi, tu non sei importante. Non ti sporchi perché sei il più grande. Ti comporti a seconda di dove ti muovi. Come vivi, come vedi, siamo ancora vivi. Voi lividi, ho i brividi, ho libri che devi ancora leggere. Iscriviti, spartiti da spartire con te. Ne ho pochi. Nanchi che non ne ho visto mai, non ne ho fatto mai. Nanchi che ti snobbavo e me lo meritavo. Ma perché sono qui se secondo te non c'ero? E perché non ci sei ora che ci sono, sono stupide frasi. Sparci in giro dai maghi del mic. Si credono tali, tanti fan giganti. E si sentono grandi oratori dal bancone. Tante idee, pochi fatti. Si va avanti, si tira, tocca muoversi, forza e sbattersi. Ascolta, interpreta, ascolta, impara. Bambino appena uscito, credi di passarsela. Aggiungere alla lista gli avversari da combattere. Abbattere chi ti si impone, cada coglione. B-boys, cada coglione. B-girls, bette che. B-boys, cada coglione. Beh, che chi cazzo siete? Vi vedete dove cazzo siete? Come siete? Ho sette, oh sette vite. 17 autunno e voi dove eravate? Vivi per forza noi, crudi per scelta. Smontiamo microfoni a morsi, ricalchiamo sugli stessi tasti e riprendiamo discorsi persi. Gusti e stessi posti, tre terzi instabili. Spicchi di strade da prenderci. Troppi piccoli MC si fanno viaggi, si credono bravi. Spavaldi b-boy dalle teste grandi. Provate a capire bimbi. Ho studiato, imparato, ascoltato sul fan. Solo dopo ho parlato. Spingi merda potente e la spaci per musica. Fai due cazzi sul muro e la chiami ricerca stilistica. Tutti nascosti dietro angoli, chiedete spazio. Vorrete altro, è finito il tempo delle favole. B-boys, cada coglione. B-girls, bette che. B-boys, cada coglione. B-girls, bette che. Dove son finiti i fei? In punizione, in ginocchio su puntine da DJ. Hai tre strisce tatuate sulle braccia e un mic in bocca. E il pavimento non si tocca. Hai bombolette e bamboline, che belline. Corrompete muri con stelline. Minchia, ma sei un ninja. Hai toccato il tasto giusto, ma il sampler era spento. E sei tornato al pavimento. Hai notato che era freddo e ti sei messo una cuffietta. Ti era stretta, tu eri fermo e giro di testa. La cura, tagli su carne. Rime su carta nude, piedi di piombo. Aghelarne sia, siamo gli stessi di sempre. Sempre peggio ho messo un occhio dentro e ho visto lo stesso schifo. Tutti pazzi, premi di plastica, artisti, stimoli. Inchiostro, un marchio, arte, bette, beat, dischi che rischiano fischi e palchi da schiantarvi. Mischie, gomiti alti, me. B-boys, cada coglione. B-girls, bette che. B-boys, cada coglione. B-girls, bette che. B-boys, cada coglione. B-girls, bette che. B-boys, cada coglione. B-girls, bette che. Hai graffiato i dischi facendo i piatti. In punizione allora. Aia.